Graziella 3, siamo sempre al 3 luglio e sono le 18:40. Allora, ti piaceva andare nei boschi? Che altro ti piaceva fare negli anni delle elementari? Che domanda che mi fai C'erano adesso? giochi, altre cose che. Sì, allora vabbè, i boschi, ma dopo in particolare la neve e la slitta. Quella era bellissima. Ho anche scritto una cosa una volta, non mi ricordo dove, che proprio mi ci piaceva Che anche cosa? E come l'ho scritta, la descrizione di cosa voleva dire per me andare in slitta. non ce lo puoi provare a sintetizzare? Era sensazioni, quindi non mi ricordo come l'ho descritto, ma l'avevo descritto bene. C'era proprio la felicità, il senso di felicità, cioè che tu partivi e poi ti portava la slitta, cioè la velocità, il senso della velocità, anche senza pericolo, perché poi per carità mi sono anche schiantata, però. Appena era nevicato, la neve era non proprio appena perché ti affondavi, ma c'era una fase della neve. Metti, se era nevicato ieri e poi la notte non aveva ghiacciato proprio, ma si era leggermente indurita, era quando si slittava meglio. Se anche ti rotolavi, la neve era ancora morbida sopra, quindi non ti facevi male, perché se ghiacciava poi ti facevi male. E andavi velocissima con queste slitte che dicevo, che erano particolari, era come le slitte, era più simile agli slittini, era il concetto dello slittino tipo il bobino, Cioè si ma sta accovacciate, piccolo piccolo. cioè sì, alto così, Io l'ho quindi viste, c'ho degli affarini piccoli piccoli, giusto un coso sotto il sedere. esatto, con le lame sotto. Però se tu sei basso, il baricentro è molto basso, quindi è molto più forte e soprattutto le gambe ti fanno, cioè riesci a condurlo bene, perché lo slittino, quell'altro, a me non mi è mai piaciuto, a parte che noi non ce l'avevamo, quello lo compravi, li vedevo secondo me in televisione forse, o qualche bambino che veniva da fuori ce l'aveva, dalla pianura. Ma da noi non c'era, non saprei neanche dove si potesse andare a comprare. C'erano queste slitte che per i bambini della montagna erano addirittura proprio dei mezzi di trasporto. E tra l'altro avevano anche una caratteristica, che andavano bene bene, ma il posto dove andavano meglio era quando le strade si ghiacciavano, che difatti ci stramaledivano noi bambini, perché con queste lame tu ci passavi e dopo un po' le strade passavano le signore, scivolavano, si spaccavano le gambe. E lì andavi velocissima. Io mi ricordo una volta che abitavo proprio dove c'era il curvone, e sai, subito no, ma quando poi la neve, in un paese dove la neve non va mai via per tutto l'inverno, cioè si faceva il crostone di ghiaccio, quando ci nevicava sopra, tu non vedevi il ghiaccio, ma il ghiaccio rimaneva sotto e diventava sempre più veloce. Mi ricordo che un giorno sono partita, ho preso la curva male. Però sulla sinistra c'era un palo di cemento, non sono riuscita ad evitarlo, ci sono andata in pieno con un ginocchio, un male, che poi ecco la roba che odiavo è che a noi non ci mettevano i pantaloni, non erano previsti i pantaloni per le bambine, quindi anche d'inverno avevano le calze lunghe, le calze maglia e la gonnina, quindi il ginocchio era protetto solo dalla calza maglia, per cui tra l'altro mi ricordo queste calze maglia blu. Quindi ho schiantato il ginocchio, un male, ma ho pensato, Madonna, ora se vado a casa dico mi sono fatto male il ginocchio, sai quanti me ne dicano? Quindi tutta zoppicante e dolorante sono tornata a casa come se nulla fosse. Il problema è che me l'ero proprio aperto il ginocchio e quindi, siccome però era blu, io non mi accorgevo che perdevo sangue dappertutto, mi vado, faccio. A un certo punto la mamma vede sangue, ma cos'è? Cos'è? Non me ne sono accorta, Ginocchio e aperto. non mi credeva anche, quindi pensava che ero proprio rincoglionita, non mi accorgevo neanche. Quindi pensava che tu fossi ritardata perché te non gli Perché dicevi niente, non quindi. dicevo le cose, io no, non sono mica accorta. Ma c'aveva un nome lo slittino nella sua lingua? No, la slitta. La slitta. La slitta con una T sola. Non era lo slittino, era la slitta. E invece a scuola che ti piaceva? Delle Materie? materie. Ah, mi piaceva tanto quando facevano le interrogazioni, mi ricordo in quinta questa cosa, io ero in gloria, c'avevo questa maestra che metteva i punti di lode, avevamo i nostri nomi, un cartellone, Penso e poi dovrebbe. tutti i giorni Un facevo metro montessoriano, sì, durante la passare che esatto. Avevamo i punti di lode, quindi io mi impegnavo con i punti di lode. Ed ero in gloria perché andavo sempre molto avanti con i punti di lode quando faceva interrogazioni. Non erano interrogazioni, erano giochi di matematica. E quindi il gioco era quella che lei ti metteva una serie di operazioni a pila e il primo che rispondeva. Io quello ero bravissima, perché era una roba da ossessivi compulsivi. Quindi tipo, magari faceva 3 per 6 meno 3 più 2 per 11. Ti risponde, io ero sempre la prima. Ecco, quello mi piaceva a scuola. Poi invece la mia angoscia terribile erano i temi per casa. Andavo a casa distrutta quando c'era il tema. E allora torturavo la mamma e dicevo: oh, Ma che temi titoli vi stupidi, davano? stupidi, il tuo paese, il mercato, cioè robe che me ne fregava in casa. E quindi non sapevo mai cosa scrivere. E quindi andavo, non so cosa scrivere, non so cosa. Allora la mamma diceva: dai, scrivi che il mercato ha tante bancarelle. Allora, il mercato ha tante bancarelle. E adesso cosa scrivo? E cosa scrivo? Era una tortura. Andavi fuori tema? Ma allora quello del fuoritema dopo, Dopo, era cioè sintetico. dopo il Ci parata. torniamo dopo al fuoritema. Ti piaceva leggere negli anni elementari? Mi piaceva leggere, però mi piaceva leggere le enciclopedie dove c'erano le cose delle stelle. Ecco, gli anni elementari, quando volevo fare l'astronauta da grande, ero molto molto affascinata dai pianeti e cercavo. In che punto eravamo sulla corsa verso la Luna? Cioè, c'era andato il primo uomo nello spazio, Gagarin, mi sembra sia del 61 o del 62. Sì. La Luna non è del No, la Luna è 69. 69, però Gagarin è andato nello È spazio. stato il primo nel 61 e poi il secondo è stato un americano, che mi pare si chiamasse Glenn, che credo nel 62. Vedi, se lo Ora trovi, controllo. vedrai. Ma se ne parlava in quegli Guarda. anni di questa cosa? Cioè. Secondo me è stato questa roba, se ne parli, ho cominciato a imparare quando forse i miei hanno comprato la televisione, perché io non sono cresciuta con la televisione. La televisione a casa mia è arrivata, che io ero già grandina, che ho già fatto la quarta elementare, metti. Prima l'avevo comprato i miei vicini di sotto, che aveva due figliole, e io andavo a vederla con loro. Ma allora andavo a vedere la TV dei ragazzi, era C'era già la TV orientativa. dei ragazzi a tempi tuoi? Sì. Non so se si chiamava già la TV dei ragazzi, ma lo era, cioè c'era, io mi ricordo lo Zecchino d'Oro, quello sì, perché lo Zecchino d'Oro secondo me è iniziato a fine anni 50. E quindi i primi Zecchini d'Oro che io sono andata a vedere sono andata sotto perché noi non ce l'avevamo la televisione. Il 12 aprile 61, per la prima volta viene lanciato Yuri Gagarin nello spazio. E Quindi sì, Glenn credo sia stato il certo, si veniva da secondo. lì. E Mi ricordo ancora, quindi se ricordo. volevi fare l'astronauta, era Sì, il tuo. Sì, ceccata come sono, non avrei mai potuto. Ma allora non sapevo che sarei stata ceccata in futuro. E che voleva dire volevi fare l'astronauta? Come lo te lo immaginavi? Immaginavo che mi mettevo gli scafandri, mi mettevano in un razzo e andavo nello spazio e guardavo l'universo. Secondo me è come se l'immaginava Margherita Hack, vedere queste robe. Cioè, non era un fa era una cosa un po' come andare nei boschi e nella neve, era la felicità. Cioè, secondo me, cioè le cose che mi ricordo da bambina, probabilmente tutti noi, forse un aspetto positivo della crescita è imparare e credere che la felicità esista e trovare i momenti di felicità. Ognuno di noi in modo diverso rispetto a com'è, però devi passarci perché altrimenti poi non ce la farai. Io in qualche maniera un po' questo senso l'ho avuto andando nei boschi. Andando sulla neve solitaria e anche nell'immaginazione andare sulla luna. Infatti, guarda, casualmente, ma non perché ho fatto questo discorso, quella che mi ha fatto un'intervista per DWF ha intitolato la mia intervista Sulla mongolfiera. Basta una mongolfiera per andare sulla luna, ma mica le ho detto della luna, l'ho solo detto della mongolfiera. Ma i boschi e la neve sono tramontati e poi sono rimasti nella sua No, sono tramontati per un motivo, perché dopo la caduta dal ponte non ho più avuto il fisico per fare le cose che facevo, cioè poi ci sono andata, eccetera, ma per me era anche una sfida fisica. Infatti, quello ti dicevo, nella fase delle elementari, poi le mie amiche erano quelle che come me avevano questo desiderio di sfidarsi fisicamente, quindi fare le corse, oppure andavamo. Metti, se c'era una strada in salita, no? Che magari aveva un muretto di sotto che via via saliva, chi riusciva a buttarsi dal punto più alto? Quindi prima si partiva da qua e poi ci si buttava e vinceva chi magari saltava da 5 metri, tanto da piccolo non ti rompi, ecco. Cioè, poi non ho più potuto fare, non dico quello, ma non ho più potuto pensare di poter fare un'attività fisica. Cioè, per carità, poi ho fatto qualche marcia non competitiva e tra l'altro io molto fiato, quindi nonostante sia tutta rotta andavo bene lo stesso, però ero consapevole che, cioè, perché faceva parte anche questo aspetto per me, tipo io se non avessi avuto quell'incidente e fossi nata qualche anno dopo sarei stata molto più risolta come persona, tranquilla, eccetera, se mi avessero fatto fare sport da piccola. Ma non uno sport competitivo necessariamente, ma anche semplicemente la corsa, cioè quelle cose che a me Non piacevano, si ma usava a quei tempi. non si usava assolutamente, cioè te la facevi da per te, ma non era previsto. Cioè io la piscina, credevo che la piscina non ci avesse l'acqua, perché andavo in colonia e non c'era l'acqua, e per me la piscina era dove ti mettevano dentro a fregare e a pigliare solo il capo. Cioè io la mia prima piscina l'ho Ma vista neanche andare a fuori. scuola si faceva quella che poi è stata Allora, a l'educazione fisica? scuola, alle medie, Alle medie. avevamo, mi ricordo, un'insegnante vecchia vecchia, c'era una cosa che chiamavano palestra, che era una cosa da un privato, dove quello che ci faceva fare era correre intorno, però non correndo troppo, intorno alla palestra, sempre dentro, un posto così dentro, e poi ci faceva fare il salto in alto. Mi ricordo, con la corda, io il salto in alto non era proprio il mio, perché fra l'altro io ero consapevole anche dei miei limiti e delle mie risorse fisiche, io ero adatta alla resistenza, salto in alto e di Alla potenza. corsa di resistenza, Sì, appunto, esatto. salto in alto e di potenza, però andavo bene, cioè magari ero la terza, ecco, ma non ero la prima, mentre sulla resistenza io quello, cioè, avrei potuto raggiungere un'eccellenza perché avevo molta forza sulle gambe. Cioè avevo anche la struttura fisica, le spallette piccine, eccetera, non è che servano tanto in fin dei conti sulla resistenza. Sullo scatto sì, cioè, ma io la resistenza ce l'avrei avuto, qualsiasi sport di resistenza avrei potuto andare bene e credo che mi avrebbe aiutata a acquisire fiducia in me stessa, perché era quello che a me mancava, cioè ero costantemente vittima dell'idea che io non ero in grado, che io non ero all'altezza, che quell'altro era meglio, che io non ce l'avrei mai fatta, e quindi magari mi fissavo in alcune cose, come quello dei punti di lode, perché comunque quelli di aritmetica ero sempre prima. Cioè. Però eri competitiva, perché questa cosa della lode si interessava molto. No, era la misura. Cioè, no, non mi interessa, perché io non guardavo quanto andavo avanti coi punti, era lì per lì. Essere in grado lì per lì, capire che ce l'avevo fatta. Oppure ero competitiva e mi sono sempre negata di esserlo, ci sta anche, eh. Perché in effetti io non mi sono mai ritenuta nella mia vita competitiva, ma forse sono diventata non competitiva, magari da piccola lo ero, perché sì, è vero, cioè questi punti di lode non ho detto mi piaceva rispondere, ho detto mi piacevano i punti di lode, quindi evidentemente avevano una valenza per me questi punti di lode. Senti, ci vuoi raccontare ancora qualcosa dell'elementare o passiamo alle medie? Stavo per fare la stessa domanda. Manca tutta l'esperienza della colonia, che non è all'elementare, È in quegli anni lì però. E ma è in quegli anni lì. Beh, allora va con la sì. Vabbè, colonia. però in realtà la colonia è sempre una cosa che ho narrata perché è un po' significativa di quella che era la coercizione delle suore nei confronti delle bambine femmine e nei confronti della sessualità in generale, quindi. Anche se allora io non ne ero consapevole, però il risultato finale è che la colonia era una sofferenza. Già era una sofferenza perché perché comunque io che non volevo neanche andare a scuola, figurati, e poi il medico disse invece alla mamma, no, no, mandemola in colonia, perché, cioè, usò un po' anche una terapia d'urto, che secondo me è stato positivo, perché sennò diventavo una che non sarebbe mai uscita di casa, quindi anche questa terapia d'urto, per cui siccome io ero terrorizzata dall'idea di andare a scuola, mandiamola in colonia un mese. Un mese? L'estate? Era un mese, sì, 4 settimane. Cioè, mandiamola, che così è una terapia d'urto e poi magari l'anno prossimo le pare una passeggiata andare a scuola dopo un mese di colonia. E così è andata. Però io ricordo come... Allora, intanto raccontaci che colonia era, perché allora, andava... La colonia era mica quella delle signorine, che io li vedevo i bambini, era Jesolo. C'era la colonia delle signorine, che erano quelle di alcune, non lo so chi le facesse, secondo me forse i comuni, non lo so, con i bambini tutti in divisa che passavano e non avevano una loro spiaggia. La nostra era una colonia più ricca, perché era la colonia di Marzotto. Marzotto, per i suoi operai, aveva comprato un villaggio, si chiamava Villaggio Marzotto, con una serie di padiglioni. C'erano anche dei padiglioni dove uno poteva andare con la famiglia, a delle stanze, agli operai Marzotto, che però faceva la convenzione anche con altre fabbriche. L'Arequaro, che era a 10 km da Marzotto, aveva fatto la convenzione con Marzotto di mandare i figli degli operai dell'Arequaro alla colonia Marzotto. La colonia Marzotto era gestita da suore, esclusivamente da suore, e con una non avevamo le divise, solo i numerini attaccati agli abiti. Ti arrivava l'elenco dei vestiti che ti dovevi mettere nella valigina, 5 paia di mutande, 4 magliette, 2 costumi da bagno, un prendisole, perché c'era il prendisole per le bambine, che era una cosa diversa dal costume da bagno, che era una robina di tela con qua, che tu avevi 6 anni. Tutto da signorina, c'era sto coso, il capello. Cioè, ti dovevi coprire il seno. Era intero, fatto su qua, con delle... e con tipo un gonnellino, quello era il prendisole. Invece il costume è sempre intero, però non c'aveva il gonnellino. E in teoria avrebbe dovuto essere un costume, ma all'epoca non c'erano questi tessuti moderni, era una roba tipo cotone pesantone, non è che fossero questi costumi. E quindi tu partivi, c'erano queste camerate dove ti tenevano comunque divisi abbastanza per zona, ma non proprio. Una cosa che io ho trovato e trovo tuttora, era una cosa che non poteva andar bene, non mettevano differenze di età. Quindi tu mettevi, erano gruppi, mettevi 20 bambine, quelli lì rigidamente ovviamente maschi e femmine, 20 bambine dai 6 ai 12 anni, dai 6 agli 11, messi insieme. Cosa poteva succedere, scusa, che quelle di 11 anni bullizzavano quelle di 6, cioè, non è che ci voglia molta fantasia, però sempre così è stato, quindi una sperava sempre l'anno dopo, però sono un po' più grande, quindi forse mi bullizzano meno. I bambini non solo erano in un altro gruppo, eccetera, in un'altra spiaggia accanto. Ah, voi non vi incontravate? No, mai. Io un anno ho mandato anche mio fratello, poi non ci ho più voluto andare, ma era tanto piccolo. Lui aveva 6 anni e io ne avrò avuti 11. Lui gli cadeva sempre il costume perché la mamma gli aveva dato un costume di lana e non sapeva lasciarsi scarpe. Qui avrei voluto aiutarlo, ma lo vedevo solo di lontano, non ho mai potuto interagire in un mese. E che facevate in questi colonie? Allora, era... La giornata era rigidamente organizzata. Ore 8 sveglia, si andava in bagno, c'erano questi bagnetti, cioè io la doccia si faceva una volta, 2 giorni prima di partire, durante tutto il tempo mai una doccia fatta, e come pensavamo come delle capre. Quindi ci si alzava, si andava in bagno, ci si lavava il viso e i denti, e poi si andava a far colazione. Una volta fatta colazione, si formava la squadra, si partiva, suore in testa, veniva nominata una caposquadra, che in genere era una stronza che bullizzava tutti. Una volta fui caposquadra anch'io, mi amavano tanto come quella caposquadra. Non so perché finì a fare la caposquadra, ma una volta mi toccò. E poi si partiva in passeggiata per andare alla spiaggia, Il primo appuntamento era alla Madonna, c'era una statua con una Madonna dove ci si fermava e si pregava, si era già pregato prima, prima della colazione, dopo la colazione. Si pregava tanto, tipo 10 minuti buoni, tante Ave Marie, tanti Padre Nostro, tante lunghe preghiere. Poi si arrivava alla spiaggia, bisognava cambiarsi, allora cambiarsi bisognava non farsi vedere, quindi Da vedevi se chi? da una bambina con l'altra, quindi vedevi queste bambine tutte coperte, eccetera, che con l'asciugamano così che si tiravano su questo costumino e alla fine comparivano col costumino. Si andava in spiaggia, lì c'erano dei tendoni e si andava sotto il tendone, lì ci avevamo i nostri giochini, i giochini erano di Shanghai, il gioco del 15, questi giochini qua, molto tranquilli per le bambine. A una certa ora, dopo un po', c'era una merendina. La merendina era fatta normalmente di pane e una marmellatina. Dopo quella bisognava tornare lì dove c'erano gli appendiabiti, eccetera, togliersi il costume e mettersi il prendisole. Questo per la prima settimana, perché per la prima settimana non si faceva bagno, perché il corpo doveva asciugarsi. Ti giuro. Ti giuro. E così alle 11, dopo aver fatto tutte queste cose accaldate, prendi sole, e a quel punto tutti al sole con la suora Che che mese suonava il era? fischietto, luglio, metti, Un caldo caldo, boia. sì, con la suora, lei stava all'ombra tutta vestita di bianco, con un fischietto che fischiava quando ci si doveva girare, quindi ora tutti così, Cioè, tutte tutte le altre. supine sdraiate con Sì, questo prendisolino. perché non veniva il fischio? Quando veniva il fischio ci si girava, bisognava girarsi, eh? Se qualcuno stava lì che sentiva, fischiava tanto finché tutte non Ma se lo c'avevate chiedevano. l'asciugamano per terra Sdraiate sul era, fondo sdraiate. di una piscina? Ah, No, che piscina, cioè nella sdraiate spiaggia, sulla sabbia con nella spiaggia. l'asciugamano. Cioè, faccia avanti, in su e poi Sì, supine. di modo che Si splendeva il così sdraiate sole. senza fare un cazzo, leggere, Così, no, giocare, no, niente. nulla, aspettando che fischiasse, che ci si poteva Cioè, per alzare. rosolarsi proprio, cioè tipo Sì, rosolare la ma carne sulla bisognava che brace. si fosse abbronzate poi, no? Questo era l'obiettivo. Fatto questo, veniva ora di andare a mangiare. Sudate come becchi, si partiva, Senza fare la doccia, tra l'altro, ma Marco. che doccia, non c'era doccia. Si partiva, si passava davanti alla solita Madonnina, si ripregava. E si arrivava a pranzo dove c'era da mangiare. Che vi davano? Io mi ricordo delle pasta asciutte, io non ero difficile a mangiare, delle gran pasta asciutte. Poi non mi ricordo se ci davano anche carne, ci avevano dati dei pezzini piccini di carne. Boh, io mi ricordo la pasta, si mangiava, poi ci Ma davano. era tipo un refettorio dove mangiavate. Non era gran, cioè erano tavoli metti da 10. E passava una che ti dava, ti scodellava questa roba nel tuo piattino. Fatto questo, avevamo un quarto d'ora perché di fronte al padiglione dove si mangiava c'erano gli scivoli e quindi c'era un quarto d'ora per andare sulle giostrine, che erano gli scivoli. Passato un quarto d'ora, sempre fischi, perché tutto col fischietto veniva. Era Ma il quante momento di. eravate? Per gruppo dai 20 ai 30, ma i gruppi erano tanti, ci sono stati 500 bambini, forse di più. Quindi ogni suora aveva il suo fischietto, il suo gruppetto, il suo. Probabilmente si mettevano anche d'accordo sui tempi, sullo scivolo dove portarci, tutte queste robe. A quel punto era il momento di riposo, dove bisognava restare fino alle 3. E una. Cioè, leggi, fai qualcosa. No, tiravano giù tutto, non si vedeva niente. Allora, dopo il primo anno, uno imparava a cercare di prendersi il letto vicino alla finestra, che magari il pomeriggio poteva rimanere uno spiaccichino sulle loro quei giornalini, se era lì che si cercava di vedere. Era una tortura, anche perché loro, cioè, gli adulti hanno sonno pomeriggio, i bambini no. Certo, Cioè, figurati i bambini. all'elementare. E quindi si aspettava queste tre che arrivassero, tutto ciò sempre senza mai lavarsi, nessun problema. A quel punto, pomeriggio, si ripartiva, Madonnina, papà si andava a fare, no, non c'era prendisole, solo il costume, si stava un po' lì, ovviamente la prima settimana Ma neanche com'era cosa. sto costume? Alto, c'ho anche una C'è un foto. costume intero. Sì, certo. i due pezzi sono arrivati dopo, cioè stiamo parlando del 1963, quello che ci fosse. E quindi nulla, tutto ciò andava avanti fino alle 5, quando ci si rivestiva e si andava in piscina. E lì potevate fare il bagno? Ma no, la piscina io l'ho imparato a 15 anni che c'è l'acqua. C'erano delle piscine a cui non era mai stata messa l'acqua, ma erano delle enormi vasche con le scalette a scendere, con delle righe, cioè, per terra. Erano delle piscine ma vuote. Dove ci sedevamo là, ogni squadra aveva le sue righe, tutti seduti sempre sotto al sole, e al bordo della piscina, al bordo lungo, di fronte a noi, lassù, andava una suora con il microfono in mano e ci faceva pregare, fare le canzonette, i canti di chiesa. E andava avanti anche tanto così. C'era una piscina accanto dove le bambine più grandi, a me mi è toccato l'ultimo anno, a un certo punto potevano andare a giocare, quindi anch'io ci andavo a palla prigioniera. C'era questa piscinetta dove ci facevano. No, andare. E non pregavate da grande. In piscina le grandi non pregavano, giocavano. Per un pezzetto sì. Cioè tipo sui campi a un certo punto le grandi potevano andare di là. Finita la piscina. Sudate fracci. Su dalla scaletta, si andava dalla Madonnina, si pregava e si andava a cena. Poi tu dici, andavate a letto. No, erano le attività serali, si usciva la sera. E erano organizzati su base settimanale. Quindi si ripetevano le settimane. Cioè ogni lunedì c'era una cosa che si ripeteva il lunedì dopo, il martedì un'altra. Ora io non sono sicura di ricordare la cadenza corretta, ma queste erano le attività. C'era un lunedì la pesca, ecco da dove nasce la mia pesca, che erano le suore che avevano messo in piedi una pesca con delle stronzate e le bambine andavano lì con i soldini delle mancette a vincere una corona del rosario, due caramelle, eccetera. E quindi ti peccavano che poi le mancette. E quella era una sera, era andata così. Poi c'era una sera il cinema, erano sempre gli stessi film. Ogni anno? Sì, tutti gli anni, ed erano, tanto io li sapevo, quindi li aspettavo. Uno era Tarzan, poi c'era il film... Tarzan era in mutande, non era scabroso? Però aveva un coso qua Tarzan, quindi non era scabroso. Cioè... Tarzan, però non so, forse l'avranno tagliato, dove era troppo desnudo. Uno era Tarzan, poi c'era una, non so perché, Fatima, aveva fatto un film su Fatima. E poi gli altri me li ricordo più, però erano quattro, sempre quelli. E così un'altra sera era andata, metti che fosse il martedì. Quindi il lunedì la pesca, il martedì il cinema, poi il mercoledì c'era il mercatino. Il mercatino era la pesca rigirata dove andavi e tu compravi i regalini da portare ai genitori, che normalmente erano delle conchiglie fatte a eccetera, insomma in quattro. Mercoledì che tu andavi riuscivano a pilucarti un altro po' di soldi, una volta per la mamma, un'altra volta per il babbo, un'altra volta indagavano se avevi un nonno e alla fine ti rifilavano questi apparini da mettere in valigia. Poi un'altra sera c'erano le vite dei santi, che erano le diapositive che era quasi un film, vabbè, le diapositive delle... Ma parlavano mentre vi dicevano, cioè ve le raccontavano anche queste vite dei santi? Certo. C'era una suora che... Sì, le vite dei santi non parlavano da sole, ci raccontava la suora, passavano queste diapositive. Io mi ricordo tipo questi santarelli, tipo San Domenico Savio, questi che erano di moda allora, tutti vestiti bene. E poi non mi ricordo cos'altro, cioè, n'era anche un'altra attività, insomma veniva coperta tutta la settimana in questo modo. Poi c'era la sera del bar, la sera del bar era che ti piccavano i soldi, che ti aprivano uno stanzino dove c'era il distributore di Coca-Cola e si poteva andare a prendere la Coca-Cola, ricordo le bottiglie. Solo la Coca-Cola. Solo la Coca-Cola. Tanta roba. E ma voi che facevate mentre bevevate questa Coca-Cola? Sai te, perché eravamo chiusi lì dentro, non si poteva neanche andare su. secondo me ci si spintonava un po'. Mm-hmm. Che non poteva neanche giocare. Ma queste valori se le fatte da, da... L'ho fatto dai 6 agli 11 anni, tutti gli anni. E dovevo... tutti gli anni c'era la stessa scansione delle... Sì, sì, sì, sì. Cioè poteva magari cambiare, perché dopo, per movimentare questa cosa, non tutte le attività venivano fatte nello stesso edificio. C'erano 2-3 edifici polifunzionali, capito? Quindi cioè, avevi un po' tipo le diapositive erano, non erano dove c'era il cinema, quindi questa era la colonia. Poi una volta nell'arco della colonia venivano i genitori a trovarti. La mamma venne la prima volta, poi io piansi talmente tanto non ci venne mai più, mandava il babbo, perché sennò io poi volevo andare a casa. C'eri dovrei andare a casa. Una cosa infinita, e quindi diceva il babbo, ma come quando doveva parlare di italiano? Con tuo babbo ti peritavi di più a fare bizze, storie, lagne? No, secondo me mi stigava meno mio babbo, mi consolava di più. Cioè io ho sempre avuto un rapporto affettivo più con il babbo, con la mamma. La mamma era una donna molto sbrigativa, molto, cioè al di là di tutta l'ansia che ha avuto nei miei confronti, però era una non era una persona che brillava in affettività. Cioè mio babbo era diverso, io quando non c'era la mamma c'era il babbo, cioè ero molto più tranquilla perché mio babbo era rassicurante, cioè non era giudicante, per esempio, cioè se io ero lì che magari stavo per mettermi a piangere, lui riusciva a voltarmela un po', magari mi dava un contentino, io mi dimenticavo, no? Cioè, invece la mamma no, se io stavo lì per mettermi a piangere, doveva farmi tutto il processo del perché mi metteva a piangere, quindi avrei piatto sicuro. Quindi, e di fatti poi non venne più, mandava lui. E obiettivamente con lui andava meglio, ecco. È che non poteva lui, cioè lui lavorava, lei no, e quindi normalmente nella quotidianità della vita mi ha sempre seguito molto di più lei. In realtà io con mio babbo, al di là di quella volta della forchetta che mi ha lanciata, però ho sempre avuto un rapporto molto più sereno, non era in tensione, un po' come l'Elena quando diceva della sua mamma che la mette in tensione se biascica. Ecco, io con la mamma sì, il babbo no, cioè mio babbo non mi creava tensione, è perché cioè, la mamma magari mi dava fastidio certe cose, ma perché mi creava tensione, non per quella roba lì. E quindi anche in questo caso veniva sempre lui. E poi cos'altro c'era di... Ah, e poi un'altra cosa che mi piaceva tanto, che mi piaceva la mia identità di Requaro, è che la Requaro, per far rabbia alla Marzotto, aveva fatto un'iniziativa che tutte le estate, solo per i bambini della Requaro, arrivava un furgone direttamente da Requaro con un pacco regali per ognuno di noi bambini di Requaro, ci chiamavano per nome. E roba. Qui, ecco cosa c'era nel pacco regalo. C'era di solito, cioè era un po' andare a fortuna, ma tanto andava bene tutto, c'era di solito due o tre cose. Una era una corda da saltare, poi un'altra cosa che c'era frequentemente ovviamente era un salvagente, perché poi c'era il momento in cui si andava in mare. Non ce l'hai raccontato. La seconda, finalmente il bagno lo faceva. La seconda e terza settimana, allora i primi tre giorni della seconda settimana si cominciava a fare il bagno solo il pomeriggio. Quindi il pomeriggio prima di andare, quindi si arrivava anche tutto col sale dopo in piscina, vabbè. E invece la settimana di mezzo, cioè fra la fine della seconda e l'inizio della terza settimana, due volte al giorno. Prima del prendisole e poi prima della piscina. Dopo si cominciava a calare, mezza settimana solo. Per disabituarvi. Per disabituarci, e l'ultima settimana più per la piscina. Dopodiché... E com'era sto bagno? Il bagno consisteva in questo, solito solo col pischietto. Allora intanto c'erano, è presente con me la zona dell'Adriatico, del Veneto, che c'ha quelle specie di dighette. Sì, sì, certo. Perché quindi, dov'era la colonia? A Jesolo. Quindi c'era fra una dighetta e l'altra delle bambine, dall'altra parte della dighetta i bambini, perché non si sa mai di quanto che spermatozoo passassi, non so perché, anche perché non solo c'era il divisorio della dighetta, ma anche non si poteva entrare in acqua assieme, bambini e bambine. Prima i bambini e poi le bambine. Perché poteva esserci, o viceversa, poteva esserci qualche spermatozoo di bambino, non lo so. Fatto sta che era così. Allora succedeva, la suora dava il fischietto e tu potevi entrare in acqua. Quindi, tutti in acqua. Chi era dell'arequaro, col salvagente dell'arequaro e via. Wow. Che era il salvagente, la ciambella. Sì. Te arrivavi che la ciambella manco la usavi e c'era il bagnino, il mitico bagnino, sul pedalò, quello no pedalò, quello qui remi, e se il bambino o la bambina attraversava l'immaginaria linea del bagnino, ti arrivava la remata in capo, ti mandava indietro, quindi era una continua battaglia col bagnino. E anche lì il tempo era a crescere poi calare, quindi la prima volta era un minuto, il giorno dopo magari un minuto e mezzo, poi pochissimo. E suonava, allora bisognava uscire. Quando bisognava uscire, ovviamente noi si traccheggiava un po', ma il medico bagnino arrivava e ti dava delle gran remate, per cui volente o nolente uscivi, anche perché poi dovevano entrare i maschi che avevano, secondo me avevano un tempo un po' più lungo, certo. Abbiamo sempre detto, un po' più lungo loro. Questo era il bagno. Non è che te facessi. Cioè, ma avevate relazioni tra bambine in questo incubo? Le relazioni avevamo nella squadra, cioè relazioni. Parlavate? Giocavamo per lo più giocavamo. Cioè, giochi di spiaggia, queste cose qua. Ma erano sempre le stesse bambine? Di anno in anno? No, erano diverse. Diverse, perché ti mescolavano un po'. Cioè, arrivavi col gruppo del tuo paese, li tenevano uniti, ma ogni anno facendo delle squadre che non era quel gruppo lì, poi magari cambiavano, capito? Perché a me mi è toccato sempre, ma perché io ero una bambina che doveva socializzare e gli altri bambini dopo riuscivano a non andarci più. A me mi è toccato sempre, fino a grande, cioè fino a che mi hanno preso, perché in realtà lo scarto per cui poi non andavi più in colonia era quando ti veniva l'amministrazione per le bambine, a quel punto la gestione poteva turbare altre bambine, quindi non ti pigliavano se avevi già avuto, meno male mi sono venute alle medie, immagino ti siano venute, ma fortunatamente mi sono venute prestino, tipo 11 anni, quindi a 11 anni basta, ho smesso la colonia. Ma te che pensavi di tutto ciò? Io all'inizio lo credevo un destino crudele che toccava a tutti. L'ultimo anno c'ero un po' arrivata e quindi dicevo mai più sti preti di merda, ste suore di merda, quindi non pensavo bene ultimamente, cioè perché cominciavo a essere grandina, infatti. Prima di andarci, quando sapevi stava per iniziare il preso delle colonie non eri contenta? Ma per niente. Mi ricordo c'erano le canzoncine che cominciavamo a cantare 10 giorni prima, domani vado a casa, suora vai in culo, una roba così. E si cominciava 10 giorni prima a contare i giorni. E quando è che hai scoperto nelle piscine ci va l'acqua? La prima piscina che ho visto con l'acqua, cioè poi l'avrò intuito, ma la prima piscina che ho visto, tu vedi che c'è l'acqua per davvero, è stata quando sono andata al primo anno di superiori a Valdagno, che a Valdagno la piscina c'era, era qua, non c'era una piscina, però ci vuoi sapere io piscina. Il primo anno, cioè Valdagno, e poi mi sono iscritta al classico, quindi figurati, c'era tutta la gente su, e i miei compagni di scuola sento che i miei compagni di classe vanno in piscina, io ero molto incuriosita. Io ero molto incuriosita e quindi, ma dov'è la piscina? Ho detto, no, è lì giù in fondo. Allora una volta sono andata, ho fatto un girettino, sono andata a vederla da fuori e ho spiato e ho visto c'era l'acqua da fuori, però non ci sono mai andati in piscina perché non sapevo nuotare, cioè non avevo neanche il costume, cazzo facevo poi da grande. Quindi io la prima volta che sono andata in piscina è stata all'università a Padova, a un certo punto, a quel punto, cioè, stavo un po' uscendo dal guscio e un bel giorno qualcuno lancia lì, andiamo in piscina ad Abano. Una volta vado anche in piscina ad Abano, via, si va in piscina ad Abano, quindi mi munisco di costume, lo sono fatto prestare, e si parte per andare ad Abano. Guarda, mi ricordo ancora con questo tizio, con una Honda 500 che eravamo su in quattro, quindi da Padova ad Abano sono 10 km in quattro su una moto, sì. E questi erano i mezzi di trasporto. Si arriva a questa piscina, Abano è pieno di piscine, e E tutti, io pensavo si toccasse nelle piscine, scopro che si tocca solo lì, tutti gli altri nuotavano, sono rimasta lì come una scema, pensavo vabbè stavo qua, ma si toccava, forse niente, dovevo proprio stare attaccata. A un certo punto mi sono un po' rilassata, io non ho mai nuotato in vita mia, mi sono un po' stesa così, e tu vedi che l'acqua mi regge, e sono stata un po' lì così a dire ma tu guarda che bello. A un certo punto guardo e vedo il trampolino sopra di me, perché c'era un trampolino a 10 metri, ero finita sotto il trampolino, e quindi ho pensato ma allora ci sono tanti metri d'acqua sopra di me, ma sotto di me, ma pensavo come faccio? Mi vergognavo a dire aiuto, venitemi a salvare, quindi ho pensato devo mantenere il sangue freddo, come sono arrivata posso tornare indietro. E quindi ho pensato ma come sono fatta? Ho pensato con una canoa, hanno passato gli oceani con la canoa, ho le braccia, così come i remi, ho cominciato a fare così, così cercavo di girarmi e via via mi sono allontanata dal trampolino, poi l'ho visto laggiù, poi guardavo, ma alla fine sono andata in salvo così, questa è stata la mia prima esperienza con la piscina. E questo è stato anche utile perché poi, no, col ciccio ho imparato a nuotare, mi ha insegnato, imparato a nuotare, io non so nuotare, ma mi ha rafforzato nell'idea che effettivamente posso toccare, cioè non mi annego anche dove non si tocca, quindi riesco non a nuotare, ma stare a galla, faccio un po' a canino, l'ho vinta questa pure, ma la prima volta è stata quella lì, che uno dice, se ti butti uno in acqua e muore, affoga, sì, Io ho imparato piano, e non, perché poi mi sono scattate quelle cose, dico, ma quando ero piccola, no? Dire sono in difficoltà, questo mi sta rubando le biglie, ma io mi vergogno a dirlo, io sono in difficoltà, sto affogando, ma io mi vergogno a dirlo, troviamo un'altra soluzione. Ho scattato questo meccanismo, io non so come ho fatto ad arrivare a 70 anni con questa testa che ho, perché comunque si andò così. Questa è la mia esperienza con la piscina. Io metterei un attimo, no? Una pausa? Sì, ma più che altro per capire la cava. Alla cava, io ho delle notizie sulla cava, però spengo.